Allora, perché ci dobbiamo occupare di economia per essere cittadini? Perché se no siamo sudditi. Beh, ve lo riassumo in poche righe. Perché oggi, vedete, questo libro è di Andrea Baranes, un esperto del mondo della finanza, è uno dei fondatori di Banca Etica. Questo testo si chiama Dobbiamo restituire la fiducia ai mercati. Questo è uno slogan che ci viene detto tutti i giorni. È un mantra. E lui aggiunge, falso, non è così. E a un certo punto del testo dice, pagina 65, un altro mantra che viene ripetuto continuamente è, non ci sono i soldi. Non possiamo fare questo, sarebbe bene farlo, ma non ci sono i soldi. La sua risposta è, il problema non è che non ci sono i soldi. Il problema è che ce ne sono anche troppi, ma sono tutti dalla parte sbagliata. Okay. Oggi commenterò alcune pagine di quest'altro testo di Luciano Gallino, L'impresa irresponsabile. Molti si chiedono come mai le imprese non tengono conto dell'ambiente, non tengono conto dei diritti dei lavoratori, non si occupano di produrre a volte prodotti validi. Ecco. Sembra che tra le aziende e la società si sia creata una frattura, perché un'azienda dovrebbe essere una parte produttiva della società che genera valore aggiunto, cioè che crea economia reale. Invece spesso le aziende non sono così, si sono portate via. Portate via molto valore nella società, hanno creato un sacco di disastri. Questo non ho bisogno di mostrarlo. Allora, come mai? Si chiede Gallino. Bene, allora è necessario avere un minimo di background storico, se no non si capisce niente in questi fatti. Intanto, oggi siamo in un sistema unico mondiale che si chiama neoliberismo. È un sistema impersonale che si crea da solo ormai, autopoietico. Questo sistema impone a tutti una competizione appunto coercitiva, non si può evitare di competere. Le aziende devono competere tra di loro, addirittura le università devono competere tra di loro per attirare gli studenti, i clienti. Tutti dobbiamo diventare venditori di noi stessi, imprenditori di noi stessi. Siamo dentro un mondo fatto di competizione necessaria, cioè coercitiva, da cui non si può uscire. Chiediamoci, ma qual è il vero scopo di questa competizione che si sta dilagando ovunque? Quindi generando non più persone pronte a essere solidali l'una con le altre. Cito tra parentesi il libro La morte del prossimo di Luigi Zoia, no? Dopo la morte di Dio, la morte del prossimo. L'ostilità che sta crescendo tra le persone. Ecco, ma come mai questo? Da dove viene? Quindi se si guarda nella storia di questo ultimo secolo è piuttosto chiaro il perché. Dunque, lo scopo che si sta proponendo la dottrina neoliberista, che è diventata una dottrina del tutto, è unico, è uno solo, è l'incremento del profitto, cioè l'incremento del rendimento del capitale a dispetto dell'incremento del rendimento del lavoro. Quindi c'è una lotta tra capitale e lavoro che è una riedizione delle lotte passate. Quindi stiamo tornando, per un certo senso, a quelle terribili situazioni che si trovavano nell'Ottocento, nel capitalismo ottocentesco. Il capitalismo ottocentesco era un sistema criminale, nel senso che produceva vittime, in modo molto grave. È criminale ciò che produce vittime, e il capitalismo produceva vittime. Non si è mai dissociato dall'aspetto criminale il capitalismo. Quando lo ha fatto perché ne era costretto. È stato costretto da rapporti di forza. Allora, quando la classe operaia si è unita in sindacati, pian pianino è riuscita a strappare, no, diritti al capitale, fino ad arrivare al top degli anni 70, in cui, diciamo, il lavoro era retribuito come mai lo era stato e i diritti dei lavoratori, almeno in Occidente, erano raggiunto il top di tutto. Non nel resto del mondo, ma in Occidente era così. Nel frattempo, che cosa era successo? Che i profitti erano invece diminuiti, come è naturale che accada. Se aumenta il costo del lavoro, riduce il profitto del capitale. Ora, negli anni 70, effettivamente, il profitto era diminuito del 50%, una cosa intollerabile per le classi dominanti, che quindi hanno dichiarato guerra al lavoro. La dottrina neoliberista crea le condizioni teoriche per fare questa guerra. Quindi chi è neoliberista si trova dalla parte giusta se effettivamente ha un capitale di oltre 5 miliardi di euro, allora lì deve sostenere questa teoria. Chi invece si trova ad avere un capitale inferiore, credo che alcuni di voi si trovino in queste condizioni, meno di 5 miliardi di euro, probabilmente se si schiera dalla parte del neoliberismo si schiera dalla parte sbagliata, si schiera dalla parte di colui che lo opprimerà. Bene. Come è stata venduta questa teoria? È stata venduta dicendo che questa teoria è necessaria per evitare le crisi. Negli anni 70 c'è stata la crisi petrolifera, a un certo punto c'è stata una crisi generale del sistema perché, adesso ve lo spiego bene, quello che erano stati il miracolo economico dei 30 anni d'oro, che tutti conoscono ormai, fine della guerra, fine agli anni 70, fine anni 70, quel miracolo cominciava ad avere una flessione, cioè il profitto cominciava a diminuire drasticamente, ve l'ho detto, il lavoro no, ma il profitto sì. Allora, adesso vi devo dire qualcosa sul modello che ha consentito questi 30 anni d'oro. Questi 30 anni d'oro erano consentiti dal modello keynesiano fordista. Modello che Ford introdusse, questo è il dato storico, nel 1914. Henry Ford. Che cosa fa Henry Ford nel 1914? Fa questo, fa una rivoluzione. I suoi operai, in generale gli operai dell'industria, lavoravano 9 ore al giorno per una paga di 2,89 dollari l'ora. E Ford, sai cosa fa? Fa una rivoluzione, paga gli operai 5 dollari l'ora, quasi il doppio, e li fa lavorare un po' meno. Perché fa questo? Perché se gli operai guadagnano di più, diventano anche clienti della stessa fabbrica e delle altre fabbriche. Cioè Ford aveva capito che, eccolo qua, in un'azienda tradizionale che produce beni e servizi, il profitto, cioè la differenza tra quello che ricava e i costi, il profitto dipende da due fondamentali fattori. Quanto ricava e quanto gli costa, quante spese deve andare incontro. Ci siamo? Quindi, se tu puoi ricavare 1000, però la spesa è 990, il tuo profitto è 10. Se puoi ricavare 1000 e ottenere con costi di 800, hai 200 di reddito. Allora, fino all'idea di Ford, in pratica cosa abbiamo tentato i capitalisti? Sempre di ridurre il costo del lavoro. Perché il costo numero uno, riducendo il costo del lavoro, i profitti crescevano. Poi, quando non era più possibile ridurre il costo del lavoro, perché gli operai si ribellavano, avevano creato, cominciano a fare che cosa? A cercare di trovare altri spazi per ricavare di più, cioè vendere in altri posti. Ci siamo? Quindi è l'epoca del colonialismo, è l'epoca in cui l'impresa occidentale cosa fa? Va a cercare di vendere in tutto il mondo, quindi incrementare i ricavi. Ma Ford ha un'idea geniale e dice, aspetta un attimo, ma noi possiamo creare un sistema che è più in equilibrio. Se io pago i miei operai di più e anche gli altri fanno così, gli operai avranno più soldi e quindi sai cosa potranno fare? Potranno comprare i beni che noi produciamo. Ma quali beni? Allora, Ford fa questo, fa una rivoluzione in cui i beni che erano riservati ai clienti della classe media, Ford produceva automobili, la sua idea è devono diventare beni di massa, cioè venduti a tutti. Ma per fare questo bisogna che gli operai guadagnino di più in modo da poterli comprare. Se gli operai possono comprare i beni che prima erano riservati alla classe media, cosa succede? Aumenta la domanda di questi beni. Quindi aumentano i miei ricavi, io vendo di più. È chiaro questo? Questo è quello che si chiama il compromesso keynesiano-fordista, in cui il capitale e il lavoro trovano una via di equilibrio. Il capitale riceve dei profitti, il lavoro riceve un incremento della paga, ma questa paga va a finire poi a incrementare le entrate dell'impresa. Quindi un circuito, diciamo così, virtuoso. Tralascio tutti gli discorsi sull'impatto ambientale, sui costi di materie prime e così via, perché nell'economia classica, nell'economia tradizionale, questi non vengono presi neppure in considerazione. Si guarda solo al costo del lavoro e capitale. Perché? Perché i costi ambientali sembrano irrisori, la terra è grande, i mezzi ci sono, basta spostarsi un po' più là. Quindi non ci si è focalizzati sull'ecologia perché sembrava che il capitale terrestre, cioè i beni della terra, fossero infiniti. Adesso ci siamo resi conto che non è proprio così, che abbiamo fatto un enorme errore. Va bene, comunque, siamo capiti su che cos'era il compromesso? Quindi, cosa succedeva? Che la curva della domanda, la curva dell'incremento della produttività e del lavoro andavano in parallelo. Ford chiede ai suoi operai, infatti, un po' un sacrificio. Crea delle catene di montaggio che sono veramente delle macchine da guerra. L'operaio deve fare pochi movimenti, quindi non ha bisogno di una specializzazione particolarmente alta, quindi il lavoro diventa più noioso di prima, però l'operaio in realtà esce di lì e si può comprare dei beni che prima erano di lusso. Quindi paga un prezzo nel senso che il lavoro è ancora più alienante, c'è la catena di montaggio, c'è il sistema taylorista per cui si razionalizza ogni gesto del lavoratore, che diventa una sorta di macchina. Però il lavoratore uscendo di lì poi si può permettere dei beni di consumo che prima erano impossibili. È già un sistema malato, sia ben chiaro, però adesso vedete che tipo di malattia ben più grave siamo finiti. Okay. Allora, una ditta come la Ford produceva beni che comunque erano riconosciuti come buoni per chi li comprava. Quindi c'era un'utilità sociale di questa azienda. E qui c'è un precedente storico molto interessante, che è una sentenza del 1919 della Corte Suprema del Michigan. Sentite bene. Ford aveva degli introiti piuttosto grossi. E lui che cosa voleva? Voleva reinvestire questi introiti dove? Nei macchinari. E reinvestirli nell'azienda perché diventasse più produttiva, reinvestirli nel lavoro perché avessero più mezzi per poter poi comprare i prodotti. Quindi diceva, distribuisco poco di questi profitti agli azionisti perché voglio reinvestirli nell'impresa. Lui aveva il 58% delle azioni. Bene, per chi non lo sa, le azioni sono una quota della proprietà. Quanto vale l'azienda in borsa? Vale 1000, allora se ci sono 1000 aziende o 1000 azioni, ogni azione vale 1. Che cosa fanno gli azionisti? Comprano le azioni per che cosa? Per investire, per avere un tornaconto. Qual è il tornaconto degli azionisti? Sono i soldi che gli vengono dati alla fine di ogni anno, per l'azione che è in mano. Il titolo rende, metti il 3%, benissimo, il 5%, meglio. Il 10%, meglio ancora. Allora Ford chiedeva un sacrificio praticamente agli azionisti, diceva, voi siete proprietari, anch'io sono proprietario, 58%, però rinuncio a una parte del mio profitto come proprietario, perché per qualcosa di più grande nel futuro, cioè rinvio una gratificazione immediata per qualcosa di più grande, cioè per poter fare in modo che le automobili arrivino a tutti. Allora era un bene riconosciuto assolutamente come positivo. Ok? Bene. Bene, c'erano altri azionisti Dodge, due altri azionisti Dodge che poi hanno creato una loro fabbrica di automobili che possedevano il 10% delle azioni. E questi fecero causa a Ford e dissero no, tu devi darci a noi il profitto che ci aspettiamo. Cioè come azionisti noi non vogliamo che tu reinvesti nell'azienda se non una parte minima, il resto ce lo devi dare a noi, perché noi siamo i proprietari e vogliamo avere un rendiconto. Andarono in giudizio, in tribunale, diede torto a Ford, poi andarono alla Corte Suprema e Ford uscì perdente. Quindi Ford non poté trattenere questi utili per investire in azienda e in un certo senso per creare un maggior valore di questa azienda stessa, una maggiore utilità sociale di questa azienda. Quindi la proprietà viene prima del valore sociale dell'azienda. Questo è un precedente molto importante. Per capirci di cosa succede, che questo precedente, questo nucleo, oggi è diventato il modo normale di gestire un'impresa. Il modello di impresa di oggi non è più un'azione, un'azienda che produce beni e servizi e quindi ha una certa utilità sociale. Se produce dei bagni c'è qualcuno che li usa, se produce dei tavoli qualcuno li usa. È meglio che ci siano i tavoli piuttosto che uno debba stare per terra, ecco, diciamo. Poi si può vedere fino a che punto questi beni sono utili o no, ma in linea di principio se produci beni e servizi c'è un'utilità. Bene, in base a questa utilità di beni e servizi l'azienda trae un profitto. Questo profitto, ve l'ho detto prima, è i ricavi meno i costi. Ma i ricavi da dove vengono? Dalle vendite. E i costi? Dalle spese. Qual è il maggior costo? Il costo del lavoro. Quali sono i ricavi? Dipendono dalle vendite. Incrementare quindi la domanda era l'idea di Ford. Incrementare la domanda vuol dire però creare la possibilità che questa domanda si estenda alla popolazione, cioè che la popolazione cresca in ricchezza. Capite di cosa sto parlando? Sto dicendo che i lavoratori devono diventare più ricchi per fare domanda di beni. Se diventano più poveri non lo possono fare. Ci siamo? Ora, il modello fordista è arrivato a un punto morto negli anni 70, fine degli anni 70, perché fino a quel punto consentiva profitti elevati, 10% e più. Alla fine degli anni 70, per varie ragioni, i profitti si erano ridotti del 50%. Però era ancora un modello equo, si trattava solo di comprendere che un profitto di più del 5% sul capitale è usura, capite di cosa sto parlando? Cioè fare soldi senza lavorare è usura. Se io ti metto dei soldi nella tua azienda e pretendo di più del 5%, io in realtà sono un usuraio, voglio fare soldi con i soldi e basta. Allora l'usura era considerata in passato il peccato più grave. Morto Dio, morti i valori, l'usura oggi è diventato invece il massimo delle risorse. Se io posso sfruttare, tirare fuori dalla tua azienda il 15%, il 20%, sono molto un gambe, molto furbo. Non è più un peccato, è il contrario, è una virtù.